quanto mi piace stare in silenzio davanti a Dio. È la cosa che più mi piace fare. Io non sono molto chiacchierone di mio già, quindi perché dovrei essere chiacchierone con Dio? Io ringrazio Gianluca. E voglio condividere, non dovevo iniziare così questo messaggio, però voglio condividere con voi quella che è stata una visione che Dio mi ha dato durante la settimana, che poi, tra virgolette, anche poco c'entra, vedrete, con quello che andremo a sviluppare questa mattinata. Però era molto forte, perché mi ritornava molto spesso poi in mente durante i miei momenti di preghiera. Ed era una bocca abbastanza sguaiata, provocante, maledicente, che parlava ad un orecchio, e parlava sempre all'orecchio destro delle persone. Perché? Mi sono voluto informare, perché mi sembrava strano che era sempre l'orecchio destro. È scientifico, l'orecchio destro è l'orecchio che noi utilizziamo per ascoltare le parole. Per invece i rumori, per la musica, utilizziamo molto di più l'orecchio sinistro, proprio per un discorso del cervello. Il nostro orecchio destro è l'orecchio che è predisposto all'ascolto. Ma credo che poi sia simbolico, riguardo il nostro cuore, la parte del nostro cuore che si predispone all'ascolto. E io credo che molto spesso noi siamo sottoposti a delle voci e ci crediamo a quelle voci. E io prego, non so, probabilmente hai una bugia che è così tanto oramai che ti rimbomba nella testa, che ci stai credendo. Probabilmente è la tua stessa coscienza, la voce interiore, che ti sta dicendo non so che cosa. Ma sai benissimo che quella è una falsità. E io voglio pregare un attimo per noi, non è solo per voi, anche per me. E poi possiamo riprendere. Permettetemi ancora questa cosa. Io voglio pregare che queste voci, nel nome tuo, Signore Gesù, possano tacere ora in questo momento. Noi riconosciamo che abbiamo bisogno di te e riconosciamo che tu sei la verità. E noi vogliamo sentire quella voce che a volte passa nel silenzio, che a volte è un sibilo, ma ne riconosciamo la potenza, ne riconosciamo l'autorità e mettiamo a tacere tutto ciò che non viene da parte tua, tutto ciò che non è promosso dallo Spirito in noi. Noi vogliamo dipendere da te, vogliamo vivere sotto la tua guida. Ristora la nostra mente, Padre. Cambia i nostri cuori. Aumenta la nostra capacità di ascolto della tua voce. Ti prego, Padre, che la nostra mente non possa essere distorta, non possa essere confusa, non possa essere inquinata da tutto ciò che da fuori viene e ci influenza. Grazie, Signore Gesù. Amen. Copio una frase, molti di voi la conosceranno già, e questa frase dice: la cultura crede, la cultura dice, la cultura vuole qualcosa. Chi riconosce questa frase? Non c'è nessuno che ha fatto con me la lezione di C2 del percorso 2 due settimane fa? No, non c'è nessuno effettivamente. C'è qualcuno? Beh, allora ragazzi, Noemi! Dove sta Noemi? Qua bisogna rifar fare a tutti quanti la lezione, la cultura del regno. Perfetto, Noemi. In questo insegnamento, ma ragazzi, per favore, destrutturiamo le cose. Non sono insegnamenti nel senso che dobbiamo imparare delle nozioni. È la vita tua che è in ballo. Permettetemi questo tuo, perché io mi sto impegnando di mio. E so che anche tu ti stai impegnando di tuo. Tutto quello che riceviamo ci serve. La cultura del mondo, la società, se la cultura può essere troppo astratta, il mondo, la società, le persone a fianco a te credono, vogliono e ti dicono qualcosa. E sapete oggi cosa il mondo sta utilizzando? Delle persone che sono state elette a influencer. Chi è l'influencer? Generalmente l'influencer è una persona con un certo carisma, con una certa autorevolezza, che crede qualcosa, che vuole condividere quello che crede, che dà giudizi su ciò che ha provato e vissuto e fa in modo di poter influenzare il pensiero, le azioni e i gusti degli altri. L'influencer, permettetemi di fare questo esempio, non è il venditore che viene e dice: allora vi sto vendendo una bella maglietta oggi, se la comprate vi faccio un buon prezzo. No, l'influencer è quello che prende quella maglia, la indossa e ci fa venire il desiderio di indossarla. È molto molto capace l'influencer. Non è una cosa sbagliata, attenzione, non sto dicendo che sia sbagliato. Tutti quanti noi, sapete perché ci sono tante camicie, no, tante, no, però comunque ho visto camicie a righe in giro quest'anno? Sono tornate le righe, se non lo sapevate. Perché Luigi ha una camicia a righe oggi? Perché è stato influenzato da un certo, non faccio nome, grande influencer italiano, ma anche uno dei più grandi al mondo, che ha detto che ritornano le righe. Quindi non sto dicendo ora che l'influencer sia tutto quanto sbagliato, però il mondo utilizza ruoli, persone con un ruolo specifico per poterci dire non solo ora una camicia a righe, cosa stupida, ma tante altre cose. Però sapete, se il termine risulta nuovo, non è assolutamente nuovo, sappiamo benissimo che la storia è stata più volte e continuerà ad essere influenzata da persone. Il MIT, questo istituto di ricerca della Università di Cambridge, ha cercato di capire quali sono state le 25 persone più influenti in tutta la storia. E io ho sudato freddo, perché non compariva Gesù, quindi non era una classifica in senso di importanza, però Gesù non c'era. Oh no, non hanno messo Gesù fra queste 25 persone. A un certo punto c'era anche Gesù. E io dico, beh, guarda caso, c'è Gesù tra le 25 persone più influenti della storia. Sapete dove si valuta la portata dell'influenza di una persona? Questa persona segna un prima e un dopo. Se riconosciamo Gesù, figlio di Dio, riconosciamo il prima, riconosciamo il dopo. Se riconosciamo che Gesù è il Salvatore e Lui ha cambiato il destino della tua vita come della mia vita e di tante altre, beh, io dico Gesù è stato un grandissimo influencer. E Lui non lo ha nascosto, anzi, ha caratterizzato la sua persona di influencer, secondo me, con 5 principi fondamentali. 1, la resa alla volontà del Padre. 2, la comunione con il Padre. 3, l'amare fuori dal normale, lo chiameremo così. 4, investire nelle relazioni. 5, darsi senza parzialità. Lui non ha mai, mai nascosto queste caratteristiche, sia nel suo essere, ma anche nel suo operare. E da Gesù, influencer, sono venuti fuori altri influencer sul suo modello. E questi influencer hanno potuto continuare a creare altri influencer. Da Gesù a noi oggi, io e te abbiamo un impatto così forte nella nostra vita perché quello che Gesù ha predicato, detto, fatto e compiuto ha un'influenza tale che continuerà ad andare avanti anche oltre noi. Io e te possiamo risultare benedetti dall'influenza di Gesù e non solo, da tutti quelli che si sono lasciati influenzare e che a loro volta hanno influenzato. Sì, perché stamattina, non parleremo di quello che Gesù ha fatto, che è straordinario e conosciamo, ma di quello che io e te possiamo fare con quello che Gesù ha fatto. La Bibbia ci presenta persone che si sono lasciate influenzare dall'esempio di Gesù o di altri, sempre sul modello però di Gesù, che sono riusciti a portare in pratica quei 5 principi che erano propri di Gesù nella propria vita. Questo, sapete cosa ci dice? Che anche io e te possiamo risultare degli influencer di grande portata. Vi presento un ometto, Zaccheo. Generalmente è una storia che sembra che venga raccontata più ai bambini che agli adulti, ma in realtà non è una storia per bambini. È una storia che parla di un uomo truffatore e malfattore, amico degli occupanti romani, che tenevano, quindi soggiogavano il popolo ebreo a quel punto, la Giudea, insomma, in quel periodo storico. E ad un certo punto questo uomo incontra Gesù. La gente intorno gli dice: ah, ma guarda, Gesù va con i malfattori, solita storia. E Zaccheo risponde, ma, a quella frase, risponde con un ma, questi ma così importanti nella parola di Dio. Facciamo così, dice Zaccheo. Do la metà dei miei beni ai poveri e se ho truffato qualcuno gli restituisco il quadruplo. Zaccheo apre le porte di casa sua a Gesù. In realtà ha aperto le porte del suo cuore a Gesù. La sua vita cambia completamente. Lui è un esempio totale di arresa in tutti i sensi a Dio. È riuscito ad essere influencer, sapete in che cosa? Nella giustizia e nella solidarietà. Zaccheo in quel momento, grazie al suo cambiamento di cuore, perché Gesù era entrato ad abitare nella sua vita e nella sua resa, lui diventa un influencer in solidarietà dai poveri. In giustizia restituisce il quadruplo a chi lui aveva già rubato. Pensate che intorno a questa cosa non si sia sentita vociferare, non abbia fatto parlare. Ma certamente, e credo che sia stata una testimonianza così forte, tant'è che è stata inserita nella Bibbia. Non a caso, non perché dovevano riempire un paragrafetto. E soprattutto, continua a parlare a me e a te. Capite l'influencer di una resa totale a Dio? Che cosa ha potuto compiere? Arriva fino a me e a te. Poi c'è un altro uomo, molto molto particolare. Lui è il centurione Cornelio. Di lui si dice che era pio, timorato di Dio, che faceva elemosina, quindi anche lui ben predisposto verso gli altri. Si era arreso a Dio, se si dice che era pio e timorato di Dio, è timorato di Dio, sì. E quindi a un certo punto è in questa situazione di disagio, perché lui era tenuto fuori, non poteva vivere la promessa di quello che Gesù aveva fatto. La salvezza, lo Spirito Santo, gli erano tutte quante precluse queste cose. Ma lui, nella sua cameretta, sapete che faceva? C'è scritto, pregava assiduamente, lui e la sua famiglia. Questo ha fatto la differenza, ha permesso a Cornelio di poter diventare un influencer di portata mondiale, perché la sua influenza ha attraversato le generazioni, ha attraversato i secoli, ha attraversato le nazioni. Diciamo sempre che io e te siamo qui perché Cornelio ha fatto quello che ha fatto e la sua influenza ha permesso ai gentili, cioè noi, coloro che non erano per discendenza chiamati ad essere parte del popolo di Dio, a diventare popolo di Dio, perché il sacrificio di Gesù, la discesa dello Spirito Santo su di lui, sulla sua famiglia, ha permesso poi la predicazione a tutto il resto. Questi due primi principi, capite benissimo, che riguardano noi e Dio fondamentalmente. E qui ricaviamo il primo punto fondamentale. Per poter essere degli influencer dobbiamo necessariamente dipendere da una fonte di ispirazione alta. Non esiste che possiamo essere degli influencer, cioè persone che devono permettere ad altri fondamentalmente di trovare e seguire Gesù senza che noi non abbiamo una guida alta, senza che noi non abbiamo lo Spirito di Dio in noi, senza che noi non riceviamo potenza direttamente dall'alto. Che cosa vi sto dicendo? Che noi non possiamo pensarci in essere e in azione privi di Gesù, privi del suo modello, ma ancora di più, privi della sua autorità, privi della sua potenza. La nostra testimonianza, quella che dovrebbe influenzare gli altri, trova compiutezza in Gesù. Altrimenti è semplicemente una bella storiella da raccontare. La mia testimonianza riesce ad impattare le persone solo ed esclusivamente grazie al fatto che Gesù ha compiuto tutto quanto per me. E poi ci sono altri tre principi che fondamentalmente riguardano la relazione interpersonale, quella fra di noi. E quindi c'è chi ha investito tempo nelle relazioni. Vi presento un certo Gaio, lui era un discepolo dell'Apostolo Giovanni, e l'Apostolo Giovanni parla di Gaio come una persona che si prodigava tantissimo per gli altri. Lui spendeva tempo con gli altri. A un certo punto è lo stesso Apostolo Giovanni che conclude la sua terza epistola dicendo questo: spero di vederti presto, rivolgendosi a Gaio, e allora ci parleremo a voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano, saluta gli amici uno ad uno. Qui si capisce che l'Apostolo Giovanni e gli altri e Gaio non avevano soltanto fra di loro un rapporto di lavoro, permettetemi questa parola. Cioè non erano soltanto impegnati nel fondare chiese, nell'edificare le chiese, nel far crescere, nel diffondere la testimonianza. Loro passavano tempo insieme, loro investivano tempo insieme, ma ancora di più, loro condividevano qualcosa, che era l'amore e la giustizia di Dio. Era questo che aveva permesso loro di poter diventare maturi nelle relazioni. Il tempo è necessario, perché bisogna anche passare del tempo insieme, ma capite quanto tempo noi molto spesso passiamo insieme, ma non è un tempo che ci fa crescere e ci fa maturare in quelle che sono le relazioni. Diventiamo intenzionali in questo. Facciamo dell'amore di Dio e della sua giustizia il punto fondamentale per poter crescere nelle relazioni. E non solo fra di noi, perché è facile fra di noi. Io amo Gesù, Saverio ama Gesù, perfetto, riusciamo a stare insieme. E se portassimo l'amore di Gesù, la sua giustizia, nelle relazioni fuori, questo ci renderà degli influencer. Gaio è stato un grandissimo influencer nel costruire delle sane relazioni fondate su Dio. E poi c'è il principio dell'amare fuori dal normale, mi piace proprio definirlo così. E c'è questo uomo, Onisiforo. Lui era anche egli un discepolo dell'Apostolo Paolo in questo caso, e l'Apostolo Paolo parla di lui in termini unici, perché è stato unico. Perché a un certo punto l'Apostolo Paolo si trovava in prigione a Roma e scrive: Onisiforo è l'unico che mi ha confortato e che mi è rimasto vicino diversamente da tanti altri. Sfido me stesso ad essere amico di un prigioniero. La mia fama, il giudizio che gli altri hanno di me, come verrebbe cambiato quello amico di quel prigioniero, di quel carcerato? Onesiforo investe. Onesiforo ama fuori dal normale. Il normale era prendere le distanze da un personaggio oramai così scomodo, quale era Paolo. E Onesiforo resta vicino. Lui e la sua famiglia. Si dice che ad Efeso Onesiforo abbia fatto di più di quello che poteva, si prodigava per gli altri. Da Efeso poi va a Roma e va alla ricerca di Paolo. Paolo apprezza tutto questo, ma Onesiforo è stato fondamentalmente un influencer nel capire e nel farci capire che c'è una maniera di poter amare che è ben oltre quello che noi abbiamo sperimentato fino ad oggi. E parlo di un amore, quello pratico, quello che si tramuta in azione. E poi c'è l'ultimo principio, il darsi senza parzialità. E ritorna il classico ragazzino dei 5 pani e dei 2 pesci, che arriva lì, 5.000 hanno ricevuto la predicazione di Gesù, ma hanno fame, 5.000 e più persone. E a un certo punto arriva il ragazzino con i 5 pani e i 2 pesci, lui dà tutto. Io al suo posto avrei fatto, che avrei dato 4 pani e 1 pesce. Così almeno un panino e un pesciolino me lo tenevo per me. Credo che la logica ci sta, vero? Non credo che sia stato, che è sbagliato pensare in questi termini. Oh, ti sto dando più della metà, ti sto dando un buon 80%, un 20 lo tengo per me. No, lui ha dato completamente tutto. Ma ci rendiamo conto di qual è stata l'influenza che questo ragazzino avrà avuto su quelle persone? Innanzitutto ha fatto sì che la pancia di tanti fosse piena. Ma quanti di fronte a quel miracolo avranno scelto e avranno riconosciuto che Gesù era il figlio di Dio? Io dico che fra quei 5.000 e più persone, almeno uno in quell'occasione, almeno uno, io sono sicuro, almeno uno avrà scelto di seguire Gesù. Valutiamo poco il fatto che uno possa scegliere di seguire Gesù. L'influenza di quel ragazzino ci insegna a dare senza parzialità. C'è una slide. A questo punto, quindi dopo che abbiamo ben detto tutte queste cose, vi inviterei a scegliere per voi stessi, io ho già scelto per me, quali fra le 5 caratteristiche proprie di un influencer voi credete dovete potenziare. Io per me ho scelto tutte e 5. Ora valutate voi quali dovete potenziare nella vostra vita. La resa a Dio, il tempo con Dio, l'amore, le relazioni e il dare. Io credo, nel momento in cui mi sono fatto la domanda, che scegliere è facile. Siamo sinceri. La scelta effettivamente ci permette di poter crescere in queste cose. La scelta è fondamentale. La decisione che prendiamo è fondamentale. Però poi mi sono detto, ma perché poi risulto sempre instabile nello sviluppare questi principi? Noi diciamo, se vogliamo essere degli influencer, dovremmo sviluppare quei principi. Però permettetemi che questa ipotesi ha un tono un po' retorico, perché non possiamo mettere davanti un sé. Io e te siamo chiamati ad essere influencer. Ricordiamoci che la nostra è una missione. Noi dobbiamo avere la maglietta da influencer, ma non solo per indossarla, capitemi bene. Noi dobbiamo essere degli influencer, è quello che Gesù vuole da noi, è quello che ci ha lasciato come mandato. Cioè il mandato di andare a far discepoli significa essere influencer, significa che la nostra testimonianza impatta chi non conosce Gesù. Noi diventiamo il tramite attraverso il quale gli altri possono trovare e seguire Gesù. Questo è il valore che ci viene riconosciuto. Quindi capite bene che quei 5 principi devono necessariamente essere in noi, non ne possiamo scappare. Non è che puoi dire, beh, uno sì, uno no, posso comprendere che mi spingo più uno verso, in questa stagione della mia vita, posso spingermi più verso il tempo con Dio, piuttosto che verso, il dare, perché sono già diventato molto molto bravo nel dare e nel darmi. Però i 5 principi devono essere presenti in me. E la difficoltà del far stare questi 5 principi in noi, diciamocelo, è tanta, è alta, non è facile riuscire a far convivere tutto questo in noi. Però io dico, se Paolo c'è riuscito, e qualcuno di voi potrebbe dirmi, Paolo, ti dico, certamente, però c'è riuscito Onesiforo. Lo conoscevate voi Onesiforo? Cioè, questo Onesiforo c'è riuscito. C'è riuscito un ragazzino con 5 pani e 2 pesci ad essere un influencer. Perché non posso riuscire io ad essere un buon influencer? E lì mi sono cominciato a dire, Signore, qua c'è qualcosa che ho perso, c'è qualcosa che mi manca, ed è lì che la parola si rivela. Degli influencer grandissimi ci passano il loro segreto. Siamo a Tessalonica, siamo nella prima epistola ai Tessalonicesi, e guardate che cosa c'è scritto. 1 Tessalonicesi 1, 2, 10. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Scusatemi. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi, per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti, da voi, la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nell'Acaia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Sembra che questa Chiesa non lasci parole ad uno che di parole ne aveva, ed era l'Apostolo Paolo. Sono riusciti a lasciare senza parole l'apostolo. La loro fama era così dirompente, così inequivocabile, che intorno si parlava di loro. Gli altri credenti nella Macedonia e nell'Acaia, quindi la nazione dove Tessalonica c'era e la nazione poi subito confinante, ma anche oltre c'è scritto, erano scioccati dal loro esempio. L'apostolo Paolo con Timoteo e con Silvano, quello era il noi iniziale, sono stati degli influencer per Tessalonica. Arrivano qui, portano il loro messaggio. Ed è scritto che era predicato sia a parole, ma soprattutto era predicato in potenza, era predicato per lo Spirito e con lo Spirito e con convinzione, determinazione. I credenti a Tessalonica vengono impattati dal messaggio, ma ancora di più, imitano, questa è la parola che c'è scritto, imitano qualcosa. Attenzione, io specifico qualcosa. Noi non dobbiamo imitare le persone, ma io posso imitare qualcosa di qualcuno. Sapete cosa hanno imitato? i Tessalonicesi, di Paolo, Timoteo e Silvano, e non solo, anche delle chiese in Giudea. Se si va avanti nel capitolo 2, c'è scritto che le chiese in Giudea avevano vissuto la stessa situazione che avevano vissuto i Tessalonicesi. E quindi la chiesa in Tessalonica imita, di nuovo questo termine, le chiese in Giudea. Qual era la situazione? C'era la persecuzione da parte dei connazionali. E i Tessalonicesi ricevono un esempio diretto da parte di Paolo, Timoteo e Silvano, che erano perseguitati, che erano messi alla gogna, che erano giudicati in maniera sbagliata, erronea, ma comunque male. Hanno poi l'esempio di chiese in Giudea che erano perseguitate e vedono che sia le chiese in Giudea che Paolo, poi in maniera diretta, personale, e gli altri, riuscivano a vivere tutto questo con che cosa? Con la gioia dello Spirito. Qui per me è stata la grande rivelazione da parte di Dio. E vi spiego perché. Prima di parlare di che cosa è la gioia dello Spirito, comprendiamo come la gioia è coinvolgente, come la gioia è diffusiva. Se sei insieme ad una persona gioiosa, puoi essere anche triste, però a un certo punto ti scappa il sorrisino. La gioia è uno strumento reale che noi abbiamo per poter impattare la vita delle persone. E qui, attenzione, non si parla di una gioia circostanziale, cioè di una gioia, le cose mi vanno bene, wow, che bella la vita. No, si parla di gioia dello Spirito. I Tessalonicesi erano nella persecuzione. E come hanno fatto ad essere gioiosi questi, di essere nella persecuzione? Cioè, in loro c'era una gioia che l'Apostolo Pietro definisce ineffabile e gloriosa. È una gioia che non puoi specificare, che non puoi dire a parole. Perché? Perché non riguarda noi, riguarda lo Spirito Santo che è in noi. Diciamoci la verità, noi a volte proponiamo una cristianità pesante. Essere figlio di Dio, mi compete la resa. Mi compete la comunione con Dio. Io devo pregare, devo leggere la Bibbia. Io devo amare gli altri. E devo stare con gli altri. Devo pure dare. La cristianità è un percorso. Però io lo voglio fare. Cioè, le persone, diciamocelo chiaramente, ma pure io, e scusatemi perché io sono lagnoso, se vi appesantisco, la gente in genere non ha bisogno di credenti sommessi, apatici, musoni. Piuttosto ha bisogno di credenti provati e pure saldi. Ha bisogno di persone con esperienza, ma non deluse. Hanno bisogno di uomini e donne che fedelmente continuano a professare e a credere che Cristo in noi, speranza di gloria. Che significa questo? Significa essere gioiosi. In questo mondo c'è bisogno di gioia. La gente non riconosce tanto il fatto che ci sia bisogno di Gesù, ma riconosce che c'è bisogno di gioia. Ed è per questo che Gesù a un certo punto ha fatto qualcosa per noi. Il nostro essere figli di Dio non è un calvario. Sul Calvario ci è andato Gesù. A noi è data la vittoria conquistata su quel monte. Era poco prima della crocifissione e Gesù ci dice questo in Giovanni 14, i versi 16 e 17. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi, lo Spirito Santo. Gesù sta per andare via. Sa benissimo che cosa doveva e stava per succedere. Ecco, ad un certo punto avvisa i discepoli, ma non preoccupatevi, sta per arrivare il Consolatore, che sarà con voi, ma anche in voi. Qui cambia tutto. Perché fino a quel momento la potenza di Dio, la potenza dello Spirito di Dio, era ben conosciuta agli uomini, ma come un'azione esterna. Con Gesù l'azione dello Spirito Santo diventa interiore, diventa da dentro noi all'esterno. Ma voglio tornare al termine consolatore. Perché usa questo termine Gesù? Il verbo consolare, nella etimologia quella originale, il verbo parakaleo in greco, sapete che non significa quello che noi diamo al termine consolazione? Noi molto spesso intendiamo il consolare come la pacca sulla spalla, dai, ce la puoi fare. E lo so che ce la posso fare. Siamo fatti per farcela. Consolare significa eliminare la causa della sofferenza. Questo è il termine e questa è la entità, questa è la potenza che è data alla persona dello Spirito Santo. Ecco perché è chiamato il Consolatore. Gesù stava dicendo, io sto per andare via, che ero quello che vi risolveva i problemi, ma non preoccupatevi perché io vi mando un altro, perché c'è scritto un altro, quindi significava che lui, Gesù, era il Consolatore, colui che toglieva la causa della sofferenza. Ma vi mando un altro Consolatore che resterà con voi sempre e sarà in voi. Quindi non soltanto agisce dall'esterno, ma agisce nel nostro interiore e dal nostro interiore verso l'esterno. Quel Consolatore è colui che produce consolazione. E quando io sono consolato, sono gioioso. Sapete perché le chiese descritte nelle epistole, comunque nel Nuovo Testamento, crescevano? Perché erano consolate. La chiave di evangelizzazione, permettetemi questa parola, era il fatto che c'era consolazione. Perché dico questo? Lo leggo, non devo neanche inventarmelo. Atti 9:31 dice che le chiese camminavano nel timore del Signore e nella consolazione e si moltiplicavano. Perché si moltiplicavano? È sempre la Bibbia che ce lo dice. Siamo in Corinzi 2, capitolo 1, 4. Dio ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi siamo consolati da Dio, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Per me è stato importante capire come poter essere un buon influencer riguarda sì quei 5 principi. Ma di fondo quei 5 principi si fondano su qualcos'altro. Il fatto che lo Spirito Santo si muova in me. Il fatto che lo Spirito Santo sia il mio consolatore e che a un certo punto io possa portare consolazione agli altri. E sapete qual è la maniera migliore per poter consolare gli altri? Farli gustare, farli desiderare, fargli volere la mia gioia, che è il frutto dello Spirito in me. Il frutto dello Spirito Santo ha senso se è condiviso. Un frutto ha bisogno di spazio per poter crescere. Un frutto ha bisogno di aria. Se sono fra me e me, chiuso nel mio percorso di santificazione, giustissimo, chiuso nel cercare di tutelare la mia mente rigenerata in Gesù, dobbiamo farlo. Impegnato a studiare la parola di Dio e ad accrescere la mia intimità con Lui, giusto. Ma faccio di questo la mia dimensione, la mia culla, dove sto, faccio e rifaccio, vedo e rivedo. Che influencer potrei mai essere? Vivrò anche tanta gioia nella mia comunione con Dio. Ma è per questo che Dio mi ha dato lo Spirito Santo. Lo Spirito di Dio è venuto e prendendo esempio dai grandi influencer della Bibbia capiamo che doveva essere messo in pratica, in azione, in noi e attraverso di noi. La gioia dello Spirito Santo è quello che può impattare le persone intorno a noi. Più delle parole, più di qualsiasi convincimento, più di qualsiasi invito che potrei dare, è la gioia che è in me, che è diffusiva. La gioia non può essere contenuta, la gioia coinvolge, la gioia è desiderata. Posso essere determinato, posso essere coraggioso, posso essere appassionato. E queste sono caratteristiche fondamentali per un influencer. Ma se tutto questo non viene visto attraverso il fatto che Cristo Gesù ha compiuto qualcosa per me e per te, dureranno il tempo di dirsele queste cose, perché inevitabilmente la vita ci deluderà. Voglio condividere questo pensiero con voi. I Tessalonicesi erano nella persecuzione e nella persecuzione ci sono restati. Sapete qual è la soluzione che è stata data a loro? Perché se avevano gioia significa che erano stati consolati dallo Spirito Santo. Loro erano stati consolati nella causa reale del problema. Il problema probabilmente non era che erano perseguitati, il problema probabilmente era che la propria famiglia gli era contro, che gli amici di sempre si erano allontanati, che bisognava camminare per strada e si aveva vergogna. Lo Spirito Santo è intervenuto su quelle che sono le reali cause del malessere e del disagio che uno che è nella persecuzione può provare. Perché l'Apostolo Paolo ha detto sempre, e tanti lo hanno preso ad esempio, che mi interessa del mio corpo, ma lui si preoccupava del suo interiore, dell'uomo interiore. I Tessalonicesi hanno fatto la stessa cosa, hanno imitato questa cosa e hanno lasciato che lo Spirito Santo potesse lavorare sulla causa reale del problema. E qualunque essa fosse, lo Spirito Santo sarà intervenuto, perché avevano gioia. La situazione c'era ancora. Dio li ha protetti, Dio li ha tutelati e Lui fa questo con noi. Ma capiamo che ci sono cause ben più profonde che ci demotivano, che ci impediscono di vivere il frutto dello Spirito in noi. Gesù ci ha lasciato la cena del Signore come un momento dove ricordarci che Lui è morto sulla croce per noi, che ha preso la condanna che toccava a noi dover pagare e sopportare. Lui ci ricorda che grazie al suo sacrificio ci ha permesso di poter diventare figli di Dio. Ha lasciato la cena come simbolo del fatto che quel sangue è stato versato per pagare un prezzo alto. E quel prezzo è stato pagato perché potessimo ricevere la salvezza, ma anche perché è Lui stesso che lo dice: è buono che io vada e che compissa quello che il Padre gli aveva dato di poter compiere, affinché il Consolatore possa venire. Il sacrificio di Gesù è la chiave che ci permette di poter beneficiare del Consolatore in noi. Io vorrei con voi vivere un tempo oggi di approccio alla cena del Signore in termini differenti. Ecco perché ricordiamo, e ce lo ricordiamo, partecipiamo con serietà a questo momento e soprattutto come Chiesa chiediamo anche a chi non ha fatto il passo del battesimo da adulto in acqua di non partecipare. E ancor di più ti chiedo oggi, ricordati, ricordiamoci che quel sacrificio è la chiave che ci permette di poter ricevere il Consolatore. È colui che ci permette di poter vivere, il Consolatore è colui che ci permette di poter vivere una vita da figli di Dio. Una vita da influencer, privi dello Spirito Santo, è impensabile. Dobbiamo consolare gli altri, ma se non lo siamo consolati noi, chi consoliamo? Hai la gioia dello Spirito in te? Oggi è l'occasione. È l'occasione giusta per poter ricevere la pienezza dello Spirito in te. E io voglio essere anche sincero con voi. Noi molto spesso non ci rendiamo conto, ma contristiamo lo Spirito. Quando? Quando penso male. Quando dico, boh, forse Dio non mi ha ascoltato. Quando dico, ok, andiamo in chiesa, c'è Luigi che predica oggi, sentiamocelo a questo. Lo Spirito Santo è delicato. E contristare lo Spirito fondamentalmente significa non averlo poi in manifestazione dentro di noi. Lui non cambia, è Dio, ma cambia quello che io provo. Ed è ovvio che poi sono triste se non ho lo Spirito dentro di me. È ovvio che poi tutto mi sembra differente, pesante, se non riesco a vivere lo Spirito Santo. Facciamo che questo tempo che ci prendiamo oggi è un tempo dove rimettiamo le cose al proprio posto tramite Gesù. Gesù è la chiave che ci permette di poter conquistare le sue promesse, ma anche di poter vivere in noi pienezza di spirito. È il tuo tempo con Dio ora. Però io voglio pregare per voi. E mentre prego, voglio che questa mia preghiera possa risultare per noi un invito a prendere anche una posizione. Valuta, abbiamo contristato lo Spirito Santo? Voglio di più dello Spirito Santo? Non so chi sei, Spirito Santo, voglio conoscerti? È l'occasione giusta. È l'occasione giusta per reclamare tutta l'autorità che c'è nel nome di Gesù per poter ricevere questo dono, che ci è necessario, altrimenti non potremo mai portare a termine la missione che Gesù ci ha lasciato, essere di influenza in questo mondo. Posso invitarvi ad alzarvi? Padre, abbiamo bisogno di te. Noi riconosciamo che siamo nulla, che non possiamo nulla, che la nostra vita non ha senso senza di te. Lo sappiamo benissimo perché l'abbiamo provata una vita senza di te. Sappiamo cosa significa, sappiamo il vuoto, cosa è, sappiamo cos'è il peso della morte sulla nostra vita. Grazie perché hai dato tuo figlio per noi. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ti sei dato totalmente e ci hai lasciato questo esempio di dono perfetto. E su quella croce hai vinto per noi, su quella croce hai conquistato per noi promesse eterne. E la caparra di quella eternità sei tu, Spirito Santo, che noi vogliamo riconoscere come essenziale nella nostra vita, come un dono che vogliamo prendere totalmente, perché tu ti dai totalmente, Dio. Non vogliamo una parte di te, noi vogliamo tutto di te. E io prego che il sacrificio di Gesù e il perdono che c'è in quel sacrificio possa ancora una volta perdonare tutte le nostre mancanze, perdonare tutti quei lati del nostro carattere che contristano lo Spirito Santo, tutti quei pensieri che sono assolutamente contrari, tutte quelle azioni che non vanno nella direzione che lo Spirito ci spingerebbe a seguire. Spirito Santo, chiediamo scusa se ti abbiamo contristato. Grazie, perché il tuo dono è eterno, perché il tuo dono è abbondante. E noi, vivendo anche questo tempo oggi insieme, Signore, vogliamo credere che nel sangue di Gesù c'è tutta l'autorità di poter vivere la pienezza dello Spirito Santo in noi e di poter vedere questa esplodere in noi. Noi vogliamo compiere la missione che ci è stata data con l'autorità che ci è dato nel nome tuo, Signore Gesù, ma anche con lo Spirito in manifestazione. E io prego che un'esplosione di gioia possa nascere in noi, perché tu vivi in noi, perché tu ci consoli, perché tu elimini le cause reali della sofferenza. Io prego per questo in questo momento. Io prego che qualunque sia l'afflizione che si posa sulla vita delle persone qui presenti possa essere annullata, non per il nostro impegno, non per il nostro per la nostra responsabilità, ma perché tu, Spirito Santo, lavori in noi e tu sei colui che ci è stato dato affinché queste siano annullate. Noi mettiamo sotto i tuoi piedi, Signore Gesù, in autorità a quella croce ogni maledizione, ogni voce negativa, ogni giudizio sbagliato, ogni peccato che ci tiene lontani. Noi vogliamo vivere la pienezza dello Spirito. E io prego, Signore, che in questo momento ci possa essere data la rivelazione chiara, precisa, di chi tu sei personalmente per ognuno di noi. Prego te, Spirito Santo, investi i cuori, sconvolgi le vite, parla, rivelati, sei lo Spirito di verità. E io so che tu lo puoi fare. Grazie, Signore. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Facciamo della cena del Signore l'occasione per sigillare la tua decisione, la mia decisione con Dio. Lo Spirito Santo è felice di poterti riempire. Accettalo, prendilo. Ricevilo, lascialo muovere in te, non porgli limiti, scopri la bellezza della sua guida, scopri la bellezza della sua trasformazione. Possiamo vivere il tempo della cena del Signore insieme. Fermati, se hai bisogno di preghiera, fermati con qualcuno. Vieni anche da me, vieni da Gianluca, c'è Vito, ci sono Enzo, Saverio, gli altri ministri della Chiesa, Luciana, non so gli altri. Se hai bisogno di preghiera per sigillare questa tua decisione, fallo ora. Non facciamo in modo che tutto svanisca nelle parole. Io prego che lo Spirito Santo possa sigillare questo in te e in me. Ok? Possiamo vivere questo.